GR24, il sole 24 ore. Fiat, Marchion, non chiediamo aiuti e non abbiamo rinunciato a Fabbrica Italia per la FIOM. Sallusti sceglie il carcere, intanto altro rinvio a giudizio per diffamazione di un magistrato. Polverini nomine in extremis, 10 altri direttori generali, nuova indagine su un assessore della regione. Serie A, il Napoli aggancia la Juve, polemiche sul turno infrasettimanale. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. In apertura dunque parliamo di Fiat, come avete sentito dai titoli, ha parlato Sergio Marchionne. Ci colleghiamo in diretta con Parigi, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan per il Salone dell'Auto, ed è là che si trovava appunto l'amministratore delegato di Fiat. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Marchionne dunque ha detto appunto che il ritiro del piano Fabbrica Italia non è colpa della FIOM, ma è colpa della crisi. Ha citato nuovi numeri: il mercato italiano chiuderà quest'anno sotto al 1.400.000 vetture e a settembre c'è stato di nuovo un calo del 20% delle immatricolazioni. L'altra novità è che Marchionne ha lasciato intendere che l'investimento a Mirafiori, che finora lo diciamo per i nostri ascoltatori era sospeso, è in qualche modo legato al riesame complessivo delle condizioni alle quali si potrà esportare dall'Italia, da un lato, e dall'altro anche al tipo di veicolo che si potrà produrre. In sostanza Marchionne ha detto: produrre per perderci non conviene a nessuno, bisogna vedere quali sono i margini, perché esportare negli Stati Uniti, tenuto conto del cambio euro-dollaro e tenuto conto di una serie di svantaggi competitivi del nostro paese, dalla logistica al fisco, eccetera, non è detto che sia conveniente. Quindi diciamo che c'è un riesame in corso, ha detto, i nostri ci stanno lavorando, ma non ha dato ancora una volta alcuna data sulla possibile partenza di questo investimento. Grazie ad Andrea Malan per questi aggiornamenti. Tra l'altro Marchionne dovrebbe tornare a parlare questo pomeriggio, vedremo che cosa succederà. Intanto ci spostiamo sulle vicende di un'altra grande azienda italiana che ha problemi diversi, è l'Ilva. Proseguono le proteste, oggi sciopero senza la FIOM. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori, come ieri anche oggi seguiamo chiaramente le vicende dell'Ilva. C'è molta tensione a Taranto per quello che sta accadendo. La UIL e la CISL hanno indetto 2 giorni di sciopero oggi e domani, i lavoratori protestano, ci sono anche dei blocchi stradali che sono iniziati alle 9 nelle principali strade d'accesso alla città, la statale 100 in direzione Bari, la statale 106 ionica che porta ad ovest verso la Calabria. Alcuni operai hanno passato la notte a 60 metri di altezza sul nastro trasportatore dell'Alto Forno 5, sulla torre del Camino e 312. C'è stato anche un incontro con un comitato di cittadini che invece vuole rigore dal punto di vista ambientale. Stamattina ha parlato anche il procuratore di Taranto, Franco Sebastio. Ha detto: non so che tipo di ricorsi deciderà l'Ilva di presentare, se non ci saranno modifiche ai provvedimenti esistenti le procedure andranno avanti e saranno inevitabili, si riferisce chiaramente allo spegnimento degli altiforni. Non è vero, ha detto, che l'Ilva ha chiesto di produrre al minimo, non lo ha specificato. Ha parlato questa mattina anche il ministro dell'ambiente Corrado Clini, ha detto che il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'Ilva spetta al ministero. Stiamo lavorando, ha detto, per il rilascio applicando la legge italiana e le direttive europee. Grazie Valentina, e torneremo a sentire gli approfondimenti sull'Ilva tra poco, interviste e approfondimenti in Italia in controluce. Una manifestazione dei lavoratori della Fincantieri intanto in corso sulla statale 145 in Campania, traffico bloccato, altri lavoratori della Piana Ambiente, la società Capitale Misto Pubblico e Privato messa in liquidazione che gestiva la raccolta dei rifiuti a Gioia Tauro, siamo dunque in Calabria, stanno bloccando un'altra statale della zona. Notizia di un attimo fa, allarme bomba all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Viale Rizzieri a Roma. L'allarme è scattato da una telefonata anonima, è stata evacuata la sede, sono intervenuti i carabinieri, i primi esiti degli accertamenti sono negativi, ma sono in corso ulteriori controlli. Veniamo al caso Sallusti adesso, dopo appunto la giornata di ieri. Oggi tra l'altro c'è stato un nuovo rinvio a giudizio per il direttore del giornale per diffamazione di un magistrato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, sì. Simone, arriva il secondo procedimento contro Alessandro Sallusti, il direttore del giornale è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omesso controllo per un procedimento di diffamazione dell'ex sostituto procuratore militare di Padova Maurizio Bloch. Il procedimento comincerà il 5 dicembre. L'intervista fu scritta da Barbara Romano, già imputata per diffamazione nel 2007 su Libero, quando Sallusti ne era il direttore. L'intervistato è il generale Antonio Pappalardo, accusato di aver diffamato Bloch. Tutto questo il giorno dopo la condanna definitiva di Sallusti a 14 mesi senza condizionale per diffamazione. Sallusti ha presentato le dimissioni, che sono state poi respinte dall'editore del giornale Paolo Berlusconi. Non chiederà la grazia al Presidente della Repubblica nell'applicazione di misure alternative. Chiede invece la grazia per lui Renato Farina, oggi parlamentare del PDL, rivelando di essere stato lui l'artefice dell'articolo per il quale Sallusti è stato condannato. Si trattava, ricordiamo, di un j'accuse riguardo al caso di un aborto di una ragazzina di 13 anni che aveva interrotto la gravidanza accompagnata comunque dalla madre, ma un j'accuse che non è piaciuto ad un giudice di Torino, che si considera infamato dall'accusa di indurre l'aborto. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi veniamo alle vicende della Regione Lazio, dibattito politico ancora aperto. Nel frattempo c'è una nuova inchiesta che tocca anche la Regione, ne parleremo tra un attimo. Adesso veniamo al punto politico e alle nuove nomine fatte in extremis da Renata Polverini. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Corsa dunque dei governatori a tagliare i costi degli apparati amministrativi delle regioni dopo il caso Lazio. Ieri la loro proposta è stata illustrata al Presidente della Repubblica Napolitano e al Governo. Di base si prevede di mandare a casa un terzo dei consiglieri regionali in tutta Italia, circa 300. Vi è poi l'attivazione di procedure di controllo attraverso la Corte dei Conti anche per quelle spese connesse ai costi della politica, ancora oggi non sottoposte a questo controllo. Piena trasparenza e pubblicità quindi dei dati relativi ai costi di funzionamento delle istituzioni e dei gruppi consiliari. Per l'adozione di queste misure i presidenti delle regioni prevedono tempi strettissimi, al massimo 60 giorni con conseguenti sanzioni per chi non si adegua. Alcune regioni stanno comunque anticipando in modo autonomo alcune misure. Il Friuli ha annunciato il taglio dei consiglieri da 59 a 48, la Campania ha ridotto le spese per ogni consigliere di 50.000 euro, e bocce ferme invece alla Regione Lazio, dove la Polverini ancora formalmente non si è dimessa, ma addirittura secondo l'opposizione ha proceduto a effettuare ulteriori nomine. Anche Palazzo Chigi intanto sta lavorando alla revisione dei costi della politica, potrebbe utilizzare addirittura un decreto che conterrebbe di fatto la cosiddetta bozza Amato. Nel mirino il finanziamento ai partiti e i costi delle amministrazioni locali. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E intanto un'inchiesta del Sole 24 Ore oggi in edicola fa il punto su quanto sono cresciute, tra le altre cose, le tasse delle regioni in questi anni. Doveva portare più efficienza e minore pressione fiscale e invece il risultato è tutto il contrario. 10 anni di decentramento hanno avuto come effetto un aumento del 50% delle tasse regionali senza alcun vantaggio per cittadini e imprese. A rivelarlo è un'inchiesta del Sole 24 Ore. Dal 2000 a oggi i tributi propri delle regioni sono aumentati del 38% e in riferimento al 2012 si può già stimare un aumento vicino al 50%. La sola addizionale IRPEF è passata da 5,8 miliardi del 2008 ai 9,7 incassati nel 2011 e intanto tra vitalizi, rimborsi e indennità sono lievitati anche i costi della politica delle regioni. Il dato è macroscopico, più 98% tra il 99 e il 2010. Del resto, scrive il quotidiano, tutte le riforme introdotte sotto la spinta della polemica sui costi della politica non hanno avuto mai attuazione. Tutte le regioni, per esempio, hanno adottato leggi per abolire i vitalizi, ma l'addio al benefit scatterà solo dalla prossima legislatura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E come si diceva, spunta un'altra vicenda di corruzione collegata in parte a quella della regione. Sentiamo. È Viterbo l'epicentro del terremoto politico che ha scosso il PDL laziale e dato il via al ciclone giudiziario che ha investito la regione guidata da Renata Polverini. Ora sotto inchiesta finisce anche il sindaco di Viterbo, Giulio Marini, indagato per corruzione e turbativa d'asta in relazione a presunti favori ad aziende viterbesi per partecipare a Vinitaly 2011. Indagati in concorso anche il commissario straordinario dell'Arsial, l'Agenzia regionale dell'agricoltura Erder Mazzocchi e l'assessore regionale all'agricoltura Angela Birindelli. Quest'ultima, già indagata nel filone per corruzione e tentata estorsione in relazione ai veleni e controveleni che hanno travolto il partito, smentisce però un suo coinvolgimento in questa nuova vicenda. Nell'inchiesta risultano indagate in tutto 10 persone, tra cui 3 funzionari regionali e 3 dipendenti pubblici viterbesi. Il sindaco è stato interrogato questa mattina dal pubblico ministero Massimiliano Siddi, lo stesso che lunedì scorso ha ascoltato l'ex capogruppo PDL Franco Fiorito su alcune fatture false pagate con i fondi a disposizione del gruppo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi le borse tentano un rimbalzo e c'è stata un'importante asta dei titoli di Stato. I mercati, il FTSE MIB guadagna lo 0,9%, il FTSE OCER lo 0,76%. Nell'asta il Tesoro ha venduto BTP con scadenza a 5-10 anni, quelli a 10 anni il rendimento medio è sceso al 5,24% dal 5,82% dell'asta di agosto, sui 5 anni al 4,09% dal 4,73% precedente. Lo spread, ossia la differenza il rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi, è sceso in questo momento a 370 punti. Tensioni che si sono riacutizzate sulla scorta delle notizie in arrivo da Grecia e Spagna. In Grecia è stato raggiunto l'accordo tra i 3 partiti che sostengono il governo Samaras sui principali punti del nuovo piano di austerity, l'ha detto il ministro delle finanze greco Yannis Stouraras, mentre Spagna e Portogallo sono alle prese con nuove misure d'austerità. A Lisbona si è concluso con un nulla di fatto il Consiglio dei Ministri straordinario sul bilancio dello Stato, che è durato oltre 7 ore. Madrid tenta di evitare il ricorso al nuovo salvataggio europeo con altri tagli, ma intanto anche la regione di Castiglia-La Mancia ha chiesto aiuti al governo centrale e la Catalogna minaccia la secessione. In piazza ormai non scendono più solamente gli indignati. Come la primavera araba, ha viaggiato su Facebook e Twitter la protesta oceanica di Madrid, conclusa tra arresti e feriti 2 giorni fa. In principio furono 3 donne, madri e lavoratrici, conosciutesi durante la manifestazione del 15 marzo. Cominciarono chattando, proseguirono con Facebook e poi con un sito. Finirono col fissare una data, il 25 settembre, per affiggere pubblicamente il loro manifesto Occupare il Congresso, e cioè assediare il Parlamento, ottenere lo scioglimento delle Camere, redarre una nuova Costituzione. Un assalto al cuore dello Stato non meno pesante della secessione minacciata dalla Catalogna. Vogliamo una rottura col passato, non una riforma, spiegano le 3 attiviste a El País. E molti hanno condiviso, tra sindacati, associazioni, ambientalisti, separatisti, estrema sinistra e non, tutti in piazza convocati via web. Parenti serpenti da sempre, spagnoli e portoghesi si sono riabbracciati in queste settimane, nelle piazze infuocate dalla protesta, con la stessa preoccupazione, ben espressa da Antonio Seguro, segretario del Partito Socialista Portoghese, oggi alla radio spagnola Cadena Ser. Il limite sta nella dignità delle persone. Il limite dell'austerità sta nella dignità delle persone. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nessun danno, ma paura in tutte le province campane, dove è stato distintamente avvertito il terremoto di questa notte, che ha avuto come epicentro il Beneventano. La scossa più forte è di 4.1, seguita da almeno una decina di repliche significative. Al microfono di Katia Caramelli, il sismologo Antonio Piersanti, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è veramente molto vicino alla città di Benevento, quindi sostanzialmente possiamo dire che l'epicentro è un epicentro urbano, cosa che tra l'altro spiega anche la particolare sensibilità che è stata ingenerata nella popolazione, perché chiaramente l'area urbana di Benevento è un'area piuttosto importante e quindi molte persone hanno risentito questo evento. È stato avvertito peraltro anche nelle altre province campane? Sì, ovviamente trattandosi di un magnitudo 4.1, che naturalmente non è un terremoto che desti preoccupazioni in termini di danni, però è un terremoto comunque, come dire, che libera una certa energia, è stato risentito anche a Napoli, ci risulta, quindi oltre che una zona provata è naturalmente una zona ad alta pericolosità sismica, cioè stiamo parlando di una delle zone d'Italia, del territorio nazionale a più alta pericolosità sismica, e la popolazione è giustamente preoccupata perché, ripeto, stiamo parlando di aree ad alta pericolosità. Avete ravvisato uno sciame sismico in questi ultimi giorni? Prima della scossa di questa notte no, ci sono state veramente pochissime scosse che rientrano nella normalissima sismicità di fondo italiana negli ultimi giorni, ma stiamo parlando veramente di 1-2 scosse al giorno. Ma prima ci occupiamo dell'intervento del Presidente del Consiglio, Mario Monti, ieri all'Assemblea dell'ONU. Mr. President. Every day and everywhere. Mario Monti ha portato ieri un messaggio molto forte sull'Europa dal podio delle Nazioni Unite quando ha parlato davanti all'Assemblea generale, si è presentato quasi più come cittadino europeo che come cittadino italiano, ha ricordato l'importanza delle misure che sono state adottate finora, non ha minimizzato la crisi, ma ha detto che l'Europa, come sempre ha fatto, uscirà molto più forte da questa crisi di quanto non fosse in passato. Ecco, il Presidente del Consiglio, devo dire, ha colpito per questo suo messaggio sull'Europa, ma ha colpito anche per il messaggio che ha dato sul Mediterraneo. Il Mediterraneo e la stabilità del Mediterraneo sono centrali per gli interessi del nostro Paese. L'Italia farà la sua parte fino in fondo. Questo riguarda non solo l'aiuto per le primavere arabe, ma riguarda l'azione diplomatica e politica per far sì che insieme riaccessino le violazioni dei diritti umani e i massacri che avvengono ogni giorno e per far sì che si possa superare questa crisi. Un messaggio nuovo, quello di Monti, che non ha soltanto affrontato le tematiche internazionali che vengono affrontate da tutti, un po' scontate, devo dire, e quindi un messaggio anche per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nel momento in cui l'Europa diventa più forte, i singoli stati nazionali non dovrebbero preoccuparsi del loro interesse, come fa la Germania, quando chiede una riforma e un seggio a tutela del suo interesse nazionale nel Consiglio di Sicurezza. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Abbiamo sentito delle vicende della Regione Lazio, abbiamo sentito dell'intervento del Presidente del Consiglio Monti, il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. L'Italia non è più una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Occidente, ripete dagli Stati Uniti Mario Monti. Non è più a rischio perché i suoi conti sono stati messi in sicurezza per ora. Messaggio rivolto un po' a tutti, ai governi amici che hanno creduto in lui, nel premier tecnico, agli speculatori per dissuaderli dal puntare ancora su Roma, ma anche ai partiti politici per dire loro: attenti, dopo le elezioni avrete di nuovo in mano il paese, lo troverete in condizioni migliorate, ma ancora fragile. Ci vuole poco per compromettere tutto con scelte sbagliate o per semplice incompetenza. Del resto le immagini e le notizie su quello che accadeva nel Lazio hanno fatto il giro del mondo e con quali risultati è facile immaginare. C'è tanto da fare per mettere un po' d'ordine negli sperperi delle regioni e non solo, se possibile con la collaborazione delle regioni stesse, come si vede in queste ore, ma i fili dovranno essere tirati da Palazzo Chigi. A proposito, nel Lazio la Polverini non si è ancora dimessa ufficialmente dopo tanti annunci in TV e continua a fare nomine e a gestire il potere. Siamo quasi in chiusura, prima del campionato parliamo di altro sport, tra statue e televisione. Ma cosa succede alla Rai? Va bene la sobrietà, il buon gusto, ma cosa c'entra tutto questo con la decisione di non trasmettere più in prima serata la box, la lotta, le arti marziali? La direttiva, subito recepita dalla commissione dei palinsesti Rai, viene dalla commissione di vigilanza per il rispetto delle fasce protette, ma dire che siamo all'eccesso di zelo è fare un complimento. Basti ricordare le ultime Olimpiadi di Londra, quanti splendidi combattimenti si sarebbero dovuti nascondere. Amaro anche il commento del presidente del CONI. Aprendo questa notizia, con incredulità e sbigottimento, commenta Gianni Petrucci. In effetti, in una TV che ci inzuppa di killer seriali, di Isole dei Famosi e talk show La Matriciana, questo divieto assume contorni ridicoli. A parte il fatto che in Italia la box, fin dai tempi mitici di Benvenuti o Mohamed Ali, è sempre stata trasmessa in ore da coprifuoco, di questo passo, per compiacere la commissione di vigilanza, si doveva censurare anche l'indimenticabile testata che Zidane diede a Materazzi nella finale mondiale con la Francia, immortalata con una statua proprio ieri al Beaubourg di Parigi. Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia! Sotto la doccia, per raffreddare il cervello, forse ci dovrebbe andare anche qualcun altro. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura il campionato, come sapete ieri vittoria del Napoli sulla Lazio piuttosto netta, 3-0, e Napoli appunto che aggancia la Juventus in vetta. Si riprendono le milanesi, la Roma no e pareggia. Nel frattempo l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani propone di abolire i turni infrasettimanali e iniziare prima il campionato. Anche di tutto questo parleremo alle 14 in Tutti Convocati. Ed è tutto per questa edizione di GR 24, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e benvenuti alla seconda edizione del GR Spettacoli. In apertura agli ascolti TV vola la penultima puntata dell'Onore e Rispetto 3 con il 22,48% di share. Su Rai 1 Per tutta la vita invece ha chiuso i battenti dopo solo due puntate, salutato con appena l'8,53%. Nell'Access Prime Time la lotta Affari Tuoi Striscia è stata appannata a causa Serie A. Pacchi staccati dal TG satirico da 4 punti, 15 a 19%. È stata annullata la recita ieri sera di Romeo e Giulietta al Teatro dell'Opera di Roma. CGIL e CISL avevano denunciato la progressiva smobilitazione del corpo di ballo con 38 effettivi assunti su 70 previsti e l'assenza di una progettualità. Sono passati quasi 50 anni, ma la Bohème, messa in scena da Franco Zeffirelli alla Scala nel gennaio 1963, non cessa di emozionare. Ieri, alla 199esima replica, il pubblico scaligero ha applaudito per oltre 10 minuti e si è alzato in piedi quando è apparso il regista. 90 anni il prossimo 12 febbraio. Restiamo a Milano aspettando Odissei, la grande coproduzione con il Teatro Nazionale di Atene. Robert Wilson, il piccolo teatro, organizza la rassegna Ulissi Viaggio nelle Odissee. 8 incontri spettacolo con la regia di Marco Rampoldi da ottobre ad aprile. Il direttore del piccolo, Sergio Escobar. Succederà quello che noi ci auguriamo, e cioè che si parta per un viaggio non preoccupandosi tanto di essere sicuri sul punto d'arrivo, ma dando valore proprio al punto per punto di questo viaggio, il cui arrivo forse potrebbe, per usare un termine, un'immagine di Cavafis, potrebbe anche deluderci l'Itaca, ma non ci deluderà se avremo avuto molte difficoltà, molta attenzione, molte peripezie lungo il viaggio. Noi viviamo in un'epoca, e uso il termine epoca non in modo retorico, sono convinto, in un'epoca che sta cambiando di sotto le mani, in cui il punto d'arrivo sembra prevalere assolutamente sul viaggio. Quindi rinunciamo alla vita, rinunciamo a conoscere non solo gli altri, ma noi stessi. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Nuovo addio in vista per i Beach Boys. Il cantante Mike Love annuncia che la formazione post 50esimo anniversario non includerà Brian Wilson, Al Jardine e David Marks. Love è detentore legale del nome della band. Il meglio della musica indipendente ed emergente italiana. L'appuntamento è da domani a Faenza per il May Super Sound. Il patron Giordano San Giorgi. Noi abbiamo creato con la rete dei festival come May il festival dei festival della musica emergente. 150 festival da tutta Italia porteranno i loro vincitori, quindi facciamo una grande vetrina della nuova musica originale, inedita, emergente del nostro paese, fatta dalle migliori band e dei migliori giovani artisti in circolazione. In questi 3 giorni, in questa grande festa della musica giovanile, del talento culturale, avremo tanti testimonial che, come l'anno scorso, permetteranno di poter avere un grande pubblico che viene a sentire questi giovani, quindi grandi artisti che faranno da testimonial generosamente a questi giovani che costruiscono il futuro della musica del nostro paese. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola. Ancora l'augurio di una buona giornata.